Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati da parte di Antonio Ceccato ad un altro incontro su Ambiente e Salute, durante il quale verrà trattato lo spinoso argomento dei rifiuti. E per farlo abbiamo con noi una gentile ospite, la signora Lucia Tamai. Sì, io sono Lucia Tamai, sono mamma e impiegata. Ho conosciuto fin dal 2007 i Medici per l'Ambiente a un incontro che aveva come tema diritto all'ambiente, alla salute e alla vita. L'incontro era stato organizzato perché in regione c'era la proposta per costruire due impianti di incenerimento. Due grossi impianti. Impianti, esatto. E i progettisti sostenevano che le tecnologie erano sicure, che gli impianti non avrebbero comportato nessun rischio per l'ambiente e per le persone. Inoltre sarebbe anche stato risolto il problema dei rifiuti. Però dai medici che seguono in modo specifico le problematiche legate all'ambiente abbiamo capito che loro erano di tutt'altro parere. E sinceramente io penso che il parere in fatto di salute deve sempre essere fatto dal medico e non dal tecnico. Mi pare sensato. Allora, perché parlando di rifiuti si parla sempre di problema quando non si parla di emergenza, naturalmente? Esattamente. Ogni giorno vediamo in televisione l'emergenza e il problema dei rifiuti a Roma. Allora, per quello che ho visto io in questi anni che ho seguito il tema dei rifiuti, i rifiuti diventano un problema quando non si è in grado di assicurare una gestione corretta di tutti quei materiali che entrano nelle nostre case. E parlo del materiale organico, cioè gli avanzi di cibo, di verdura, di plastica e vetro o della carta. Infatti, per tutti gli imballaggi ci sono i consorzi di filiera che provvedono al loro riciclo. Ecco, questo è importante da sottolineare. Attraverso il CONAI. Il decreto Ronchi ha istituito proprio questo CONAI affinché noi, quando compriamo un prodotto, paghiamo anche il prezzo per lo smaltimento dell'imballaggio. Questo anche questo è da sottolineare, perché non mi pare sia molto conosciuta questa notizia. E allora, per avere questo ciclo virtuoso e eliminare quello che viene definito un problema, bisogna che le amministrazioni gestiscano la raccolta differenziata porta a porta, e cioè che ciascuno sia responsabile di quei materiali che arrivano in casa. Ma soprattutto è importante che il cittadino percepisca il proprio ruolo come fondamentale in questo circolo virtuoso, cioè è il cittadino che decide se un materiale diventa rifiuto o diventa materiale riciclabile. Quindi la qualità della raccolta differenziata evidentemente è quella che dà tutto. È fondamentale, non si può prescindere da questo. E che cosa si intende per gestione virtuosa dei rifiuti? Appunto, come dicevo, questo meccanismo presuppone la consapevolezza dei cittadini che non stiamo parlando di rifiuti, ma di risorse che sono state prodotte dalla terra e dall'uomo e che non devono essere disperse. E per cui, innanzitutto, dobbiamo cercare di minimizzare i rifiuti, esatto, di non comprare cose che non ci servono. Chiaro. Ove possibile, dare una nuova vita a vestiti, mobili, libri. E poi dobbiamo appunto fare questa raccolta differenziata puntuale in modo che tutti questi prodotti vadano ai consorzi di recupero dei materiali gestiti appunto dal CONAI, che sono il Corepla, il Comiecco, il Rilegno per la plastica, il vetro, l'alluminio, cioè ogni materiale ha la sua filiera di recupero. Questo è importante da sottolineare ancora una volta, anche perché evidentemente è da lì che parte la consapevolezza o l'impressione. E inoltre non dobbiamo sprecare le risorse, perché non sono infinite, soprattutto quelle alimentari. Purtroppo è stimato che un terzo del cibo prodotto finisce direttamente in pattumiera. È una cosa addirittura indegna. Esattamente. Però insieme col cibo finiscono anche le energie che sono state utilizzate per produrlo, e quindi il lavoro, l'acqua, i trasporti e anche le risorse che sono state utilizzate per fare gli imballaggi. Ecco, questo è già meno, come dire, credo conosciuto come problema, ma è un problema che è assolutamente collaterale, ed è evidente che riducendo questi sprechi eccetera si dà una mano assolutamente alla gestione, e non diventa più un problema ma una risorsa, forse, no? Esattamente. Allora, com'è possibile per dire che si sprechino così tante risorse? Perché la domanda sorge spontanea. Sì, perché ci riempiamo di tanti materiali in casa, di cose che non ci servono? E secondo me col tempo è passato il concetto che il benessere fosse collegato al consumo, cioè tu più consumi e più vivi nel benessere. Ricordiamoci che per esempio tutti i parametri di economicità del nostro Stato vengono collegati a questo PIL. Più cresce il PIL e più sembra che ci sia benessere. Diciamo che è un po' distorta la questione. Esattamente. E quindi siamo in questo meccanismo dove compriamo delle cose anche se non ci servono, ne compriamo di più di quelle che ci servono perché la produzione ne mette in commercio tantissime di nuove, ma ci stiamo rendendo conto che il consumismo non migliora la qualità della vita, anzi ai livelli attuali la compromette. Ecco, qui naturalmente ci sono delle forze, come dire, centrifughe, che sono quelle che inducono a consumare sempre di più. Evidentemente occorre bilanciare queste forze centrifughe con una consapevolezza anche qui sana di quello che si può fare. Una delle parole anche che ogni tanto cita Papa Francesco è la sobrietà. Io credo che si potrebbe anche partire da questa per capire come, esatto, in che direzione andare. Questo è un concetto fondamentale. Per esempio, parlando di moda, ogni anno ci propongono mode nuove, ma perché la moda non ce la facciamo noi? Apriamo l'armadio e ci facciamo la nostra moda invece di andare a comprare. E diciamo che sembra, adesso voglio esagerare e fare l'avvocato del diavolo, ma sembra che ci sia appunto questa esasperazione, diciamo, al consumo, che non va a favore di appunto un consumo responsabile. Scusi il gioco di parole. No, diciamo. No, ma è proprio questo il concetto. Noi non ci siamo resi conto che viviamo all'interno di un mondo che è in grado di produrre determinate risorse, non possiamo consumarne. Risorse finite, evidentemente. Esattamente, sono risorse finite, non possiamo consumarne più di quante il pianeta sia in grado di produrne. Si parlava che ai livelli attuali il livello di vita viene compromessa, ma in che modo viene compromessa la qualità della vita? Appunto perché noi stiamo consumando più di quello che la Terra è in grado di produrre. Ad esempio nel 2016 è stato calcolato che l'8 di agosto avevamo già consumato le risorse rinnovabili che la Terra era in grado di produrre per quell'anno. Quindi mi pare che sia anticipato rispetto agli anni scorsi, o sbaglio? Esattamente, quasi tutti gli anni andiamo ad anticipare. Beh, insomma, questa data. È molto molto inquietante, se vogliamo. Esattamente, perché se tutti consumassero ai livelli delle civiltà industrializzate non ci sarebbero risorse sufficienti per tutti. Esattamente, qui naturalmente ci riempiamo anche di cosa? Di beni che devono poi essere, come smaltiti. Dire, smaltiti. E niente, questo è già questo primo approccio, questo primo impatto ci dice che cosa sarebbe possibile fare, eccetera. Passiamo al nostro intervallo musicale con Ci vuole un fiore di Sergio Andrini. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare un fiore Ed eccoci di nuovo in studio. Siamo con la signora Lucia Tamai e stiamo parlando dello spinoso, scottante tema dei rifiuti. Che cosa possiamo fare allora noi in concreto? Perché chiaramente ci sono tutti questi massimi sistemi, ci si parla addosso, le istituzioni fanno tante cose, convegni eccetera, ma la concretezza, il quotidiano, il giorno per giorno, che cosa possiamo fare? Ecco, allora consideriamo che dagli ultimi dati che ci dà l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2014 in Italia sono stati prodotti 30 milioni di tonnellate di rifiuti. Però. Questo vuol dire che ciascuno di noi produce da 1,5 kg a 2 kg di rifiuti al giorno. Questa è la solita media, insomma, certo. Ci dà un'idea della... La statistica, diciamo. Esattamente, ecco. Ci dà un'idea di cosa stiamo parlando. Mm-hmm. E su questo 1,5 kg o 2 kg di rifiuti ogni cittadino ha la possibilità di fare la differenza. Può appunto decidere se quel materiale che lui ha in casa è un materiale che va a finire nel ciclo virtuoso di rifiuti di cui abbiamo parlato prima, dove la plastica viene rigenerata, l'umido diventa compost e tutto ritorna in un'economia circolare come avviene in natura, oppure se questo rifiuto va a finire in discarica oppure all'inceneritore, perché teniamo presente che tutto quello che viene raccolto indifferenziato va bruciato o va portato in discarica. Ecco, poi c'è la questione del recupero, mi pare anche in certi casi, o sbaglio, si riesce a fare qualcosa? No, tutto quello che viene raccolto viene raccolto, allora se parliamo dei combustibili solidi secondari, vuol dire che loro prendono il rifiuto indifferenziato, lo compattano e lo portano nei cementifici a bruciare. Ah, capito. Quindi è sempre un incenerimento. È sempre un incenerimento, però qua c'è tutta una distinzione che ci fa confusione. Certo, non ci fa capire esattamente che se non viene fatta la raccolta differenziata, la parte va. Esatto. Persa, e noi abbiamo, o sotto forma di discarica o incenerimento. È che noi abbiamo bisogno invece di chiarezza anziché di confusione, giustamente. Ecco, a questo proposito, a proposito dell'incenerimento, ISDE sostiene che è la soluzione meno rispettosa per l'ambiente e della salute, perché la combustione comporta la produzione di ceneri, cioè non è che uno brucia i rifiuti e questi spariscono. Esattamente. Un terzo del peso dei rifiuti diventa cenere e va smaltito in discariche speciali. Ecco questo. Inoltre vengono immesse in atmosfera milioni di metri cubi di fumi e polveri grossolane. Diciamo polveri grossolane quando parliamo del PM10. Teniamo presente che il PM10 ha un diametro che è un settimo di un capello, cioè prendiamo un capello e lo tagliamo in 7 parti. Poi c'è un altro particolato, come viene detto, un'altra polvere, che è il PM2,5, che è ancora più fino, il diametro è 30 volte inferiore rispetto a quello di un nostro capello. E quindi anche più pericoloso, ritengo, per l'ingestione e compagnia. Perché mentre il PM10 si ferma a livello di naso e gola, il PM2,5 finisce direttamente nel sangue. Mm. E come ci ha insegnato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo va dicendo da molti anni, dice che la salute dell'ambiente è direttamente collegata con la salute delle persone che vi abitano. Quindi se noi continuiamo a immettere in atmosfera queste polveri fini o molto fini, le respiriamo. Certo. Non le vediamo perché abbiamo capito che sono molto piccole, ma... Però, a proposito di OMS, praticamente una notizia di qualche giorno fa sulla stampa nazionale, do un titolo, il titolo di un giornale nazionale: aria avvelenata nel 90% del pianeta. Anzi, il titolo è ancora al di sotto di quello che è il problema, perché qui dice solo 8 persone su 100, quindi il 92% respira aria inquinata, e solo 8 su 100 possono respirare pieni polmoni sapendo che l'aria che entra nel loro corpo è pulita. Sono numeri che sono spaventosi, sbalorditivi. Perché queste particelle finissime in pochissimo tempo fanno tantissima strada. Non è che perché io non brucio qua a Treviso il problema non ce l'ho. Certamente. Teniamo presente che la pianura padana è come un catino che ha le Alpi a nord esatto, e l'Appennino esatto. A sud, quindi tutti gli inquinanti che vengono immessi restano in atmosfera. Esatto, e poi ci sono dei soggetti più a rischio. Certamente. Ci sono sicuramente ad alto rischio i bambini, perché si muovono di più, respirano di più e quindi hanno la possibilità, o purtroppo, di respirare di più di queste polveri sottili. Le donne in gravidanza, perché ci sono degli studi che ormai hanno acquisito la certezza che gli inquinanti, passando attraverso il sangue, raggiungono il feto. E dopo, inoltre, i malati, gli anziani, insomma, che già sappiamo. E da quanto ci dicono gli ultimi studi medici, il rischio non è riferibile solo a malattie tumorali, come si è pensato fino adesso, ma anche ad altre problematiche, quali l'incremento dei ricoveri e delle mortalità per cause respiratorie e cardiocircolatorie, alterazioni endocrine, immunitarie e neurologiche. Come procede la raccolta differenziata, a proposito della quale abbiamo parlato prima, in Italia, diciamo, generalmente? Allora, sempre dagli ultimi dati, che sono purtroppo relativi al 2014, è confermato che la raccolta differenziata in Italia continua a migliorare, per fortuna. L'ultimo dato ci dice che abbiamo raggiunto il 45%. È sempre, parliamo sempre di media, sì, però. Sì, cioè, appunto. Perché... In questa media il Veneto è al 67% e Treviso, addirittura la provincia di Treviso, ha raggiunto punte dell'80%. Però in certe regioni d'Italia la raccolta differenziata è ancora al 20%, e questo un po' spiega perché vediamo tutti quei cassonetti che traboccano di rifiuti. È un problema di amministrazioni, quindi, chiaramente. Esatto, è evidente che ci sono amministrazioni che devono darsi da fare in questo senso. E speriamo che lo facciano anche in fretta. Esattamente, quindi serve una maggiore consapevolezza da parte del soggetto privato, ma anche e soprattutto del soggetto pubblico, di chi, sì, deve, di chi deve dare questo input, di questo impulso, eccetera, eccetera. Quindi, differenziando correttamente, che cosa salta fuori? Allora, facendo un conto così sempre statistico... Sì, sì, una cosa veloce, ecco, naturalmente, teniamo, non pretendiamo... Teniamo presente che nel nostro sacchetto dei rifiuti ci sono 280 grammi media di scarti vegetali e 250 grammi di carta. E vuol dire che noi, solo differenziando il rifiuto vegetale e la carta, che sono due cose semplicissime che sanno fare anche i bambini, possiamo avere una raccolta differenziata del 53%. Però... Se ci mettiamo la plastica e il vetro, che sono due cose semplicissime anche, certo, queste, perché la plastica basta lavarla un pochino, il vetro lo stesso, e conferirli, arriviamo addirittura al 75%. Beh, e non occorre dire altro, io ritengo. Io ringrazio molto la signora Lucia Tamai per queste preziose informazioni. Naturalmente, per chi volesse approfondire l'argomento, noi abbiamo il nostro indirizzo di posta elettronica info@bluradioveneto.it ed è disponibile naturalmente anche il podcast della trasmissione. Grazie di nuovo alla signora Tamai e alla prossima volta. Un saluto a tutti. Ambiente e salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.